La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'imprenditore manager Enrico Mattei, fondatore dell'ENI nel 1953, scomparso 50 anni fa in un incidente aereo di natura dolosa. Ospite ai nostri microfoni Nico Perrone, autore, tra gli altri, del libro Enrico Mattei, pubblicato da Il Mulino. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla dinastia dei Kennedy, una famiglia baciata dalla bellezza e dalla ricchezza, seppur spesso spezzate dalla tragedia. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. Quella che avete appena ascoltato è la voce di Enrico Mattei, fondatore dell'ENI, figura di primissimo piano nell'Italia della ricostruzione degli anni 50, imprenditore e manager con lo sguardo rivolto verso il mondo nuovo, che provò a sfidare le cosiddette sette sorelle, vale a dire i signori del petrolio di allora. Enrico Mattei, il primo presidente dell'ENI, di cui proprio in questi giorni ricorrono i 50 anni dalla morte. Il 27 ottobre del 1962, il suo aereo proveniente da Catania e diretto a Linate precipitò a Bascapè. Insieme al presidente dell'ENI persero la vita il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale. Le cause della tragedia rimasero a lungo oscure. In seguito a nuove evidenze, nel 2005 fu stabilita la natura dolosa dell'incidente. Vennero infatti ritrovati segni di esposizione a esplosione su parti del relitto, sull'anello e sull'orologio di Mattei. Nell'immediato dopoguerra viene affidato a Mattei il compito di liquidare le attività dell'AGIP e provvedere alla sostanziale privatizzazione degli asset energetici. Mattei sceglie di disattendere questa indicazione per conseguire un obiettivo che ritiene fondamentale: garantire al paese un'impresa energetica nazionale in grado di assicurare quanto necessario ai bisogni delle famiglie e allo sviluppo della piccola e media impresa a prezzi più bassi rispetto a quelli degli oligopoli internazionali. Raddoppia la perforazione dei pozzi, sfrutta la ricerca mineraria nella Valle Padana, sceglie le alleanze nel governo e tra i partiti che lo sostengono. Nel 1953, dopo una lunga e travagliata discussione iniziata nel 1947 tra chi sosteneva ad oltranza l'iniziativa privata e quanti erano fautori di una forte presenza dello Stato nell'economia, nasce l'ENI. Sotto la sua presidenza l'ENI negozia rilevanti concessioni petrolifere in Medio Oriente e un importante accordo commerciale con l'Unione Sovietica, iniziative che contribuiscono a rompere l'oligopolio delle sette sorelle che dominavano l'industria petrolifera mondiale. Pur non essendo attivamente impegnato in politica, Mattei è vicino alla sinistra democristiana e siede in Parlamento dal 1948 al 1953. Io penso che noi dobbiamo andare verso un rapporto diverso nel mercato petrolifero. L'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Naturalmente partecipa quando c'è di buono, come anche per quello che ci può essere di cattivo. Non solo presidente e manager, ma anche un politico a tutto tondo, attento a quello che si muoveva in quegli anni nel mondo a partire dalla decolonizzazione, come emerge da questo passaggio del discorso che Mattei tenne a Tunisi il 9 giugno del 1960. Non ho paura della guerra in Algeria. Non ho paura della decolonizzazione. Io credo alla decolonizzazione non solo per ragioni morali di dignità umana, ma per ragioni economiche di produttività. Senza la decolonizzazione non è possibile suscitare nei popoli afroasiatici le energie, l'entusiasmo necessario alla messa in valore dell'Africa e dell'Asia. Ora le ricchezze dell'Africa e dell'Asia sono immense. La geografia della fame è una leggenda. È legata solo alla passività, all'inerzia creata dal colonialismo nelle popolazioni autoctone. Faceva comodo al colonialismo incoraggiare la fatalità, la rassegnazione. Ho lottato anch'io contro l'idea fissa che esisteva nel mio paese, che l'Italia fosse condannata ad essere povera per mancanza di materie prime e di fonti energetiche. Queste fonti energetiche le ho individuate e le ho messe in valore e ne ho tratto delle materie prime. Ma prima di far tutto questo, ho dovuto far anch'io della decolonizzazione, perché molti settori dell'economia italiana erano colonizzati, anzi direi che la stessa Italia meridionale era stata colonizzata dal Nord Italia. Abbiamo in linea il professor Nico Perrone, autore di diversi saggi su Mattei, tra cui segnaliamo l'ultimo pubblicato dal Mulino, che poi è una seconda edizione, dal titolo Enrico Mattei. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Ci aiuti a capire meglio la personalità di Enrico Mattei, al di là e forse anche oltre il suo coraggioso tentativo, condotto in anni complicati, difficili, di rompere l'oligopolio che dominava allora il mercato petrolifero mondiale, quello vale a dire delle cosiddette sette sorelle. Ma oltre a questo, Mattei cosa ha lasciato alla politica, all'economia, alla società italiana? Mattei ha ridato un ruolo all'Italia. L'Italia usciva da una guerra e aveva il ruolo del paese sconfitto. E la spinta che Mattei dà, partendo dal settore petrolifero, ha delle ripercussioni straordinarie nella figura del nostro intero paese nelle relazioni internazionali. Ridà all'Italia il ruolo di protagonista. Si tratta di una figura molto più complessa, che quindi noi potremmo quasi definire come una sorta di ambasciatore dell'Italia negli anni della ricostruzione, negli anni dello sviluppo impetuoso degli anni 50, in cui il paese cresceva a ritmi notevoli ma con moltissime contraddizioni. Ecco, Mattei riesce a impostare in qualche modo un nuovo sviluppo, un nuovo modello di sviluppo dell'economia italiana. Una spinta fortissima al miracolo economico è data proprio da Mattei, dal suo progetto di trovare il petrolio per l'Italia. Inizialmente non trova il petrolio, trova il metano nella Valpadana e viene convogliato in tutta la Valle Padana con dei metanodotti e consente di dare un combustibile alle imprese, alle aziende, ma anche alle case, ha un costo straordinariamente basso e quindi ha un peso molto forte questa operazione di Mattei sullo sviluppo italiano. Veniamo adesso all'impegno politico di Mattei, che fu vicino in qualche modo alla sinistra democristiana, ma attento a quello che si muoveva anche a sinistra, aveva amici in tutti gli schieramenti. Questo suo approccio al mondo politico gli servì nella sua attività di presidente dell'ENI? Mattei era nato nella politica, aveva avuto un'esperienza col fascismo, giovanile, questo non conta molto, aveva avuto l'esperienza notevolissima nella resistenza, era stato il comandante di tutte le formazioni cristiane, si chiamavano appunto così, comprendevano anche quelle cattoliche, e dopo questa esperienza di partigiano diventa il fondatore dell'ENI. Ma attenzione, accanto a Mattei, alle spalle di Mattei, a dar credito a Mattei, a dare quella possibilità a Mattei di realizzare il suo programma, c'era un presidente del Consiglio straordinario che si chiamava Alcide De Gasperi, sì, che consentì che Mattei realizzasse i suoi programmi. Ebbe De Gasperi la netta sensazione che l'iniziativa di Mattei poteva ridare all'Italia un ruolo nelle relazioni internazionali dalle quali l'Italia era fuori per la sconfitta. Abbiamo da un lato il metano per lo sviluppo della Valpadana e dall'altro il petrolio che Mattei deve andare a trovare fuori l'Italia perché le sue perforazioni non hanno avuto successo. Un'attività che viene bruscamente interrotta il 27 ottobre del 1962 quando l'aereo di Mattei ha questo incidente sul quale poi per molti anni non si è fatto luce, ma adesso cominciano a emergere nuovi particolari. A che punto sono le indagini, la ricostruzione di quel che avvenne quel giorno? La novità è l'esplosivo trovato nei pezzi dell'aereo che erano stati conservati e anche nei reperti anatomici che erano sepolti, che sono stati riassumati. La presenza dell'esplosivo fa intendere chiaramente che si è trattato di un attentato. Certo, non di un incidente. Successo questo fatto al momento in cui Mattei aveva raggiunto il culmine forse delle sue attività con Lidi e aveva creato un disturbo grande da parte dei protagonisti storici tradizionali del mercato petrolifero, che erano inglesi e americani. Ma non aveva fatto soltanto questo Mattei con le sue iniziative politiche sosteneva la sinistra della Democrazia Cristiana, e la sinistra della Democrazia Cristiana in quegli anni non era perfettamente allineata, anzi si temeva che potesse addirittura questa formazione all'interno della DC spingere per portare l'Italia su posizioni neutraliste, sì, rispetto invece all'iniziale schieramento nell'Alleanza Atlantica. Grazie professor Perrone, buona serata. Buona serata a voi. La storia e la memoria torna tra poco. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. A pochi giorni dalle elezioni del presidente degli Stati Uniti, Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato a una delle dinastie più amate d'America, i Kennedy. Una numerosa famiglia di origine irlandese, uomini e donne dalle vite esuberanti, la cui ambiziosa visione del futuro non riuscì a proteggerli dal loro tragico destino. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 4 novembre, alle 21, su History Channel. Nel 1914, Rose Fitzgerald, figlia del sindaco di Boston e devota cattolica, sposa il 25enne Joseph P. Kennedy, il più giovane presidente di banca d'America. Nei successivi 17 anni la coppia produce una formidabile nidiata di 9 bambini, 4 maschi e 5 femmine. 2 maschi più grandi, Joe Jr. e John, detto Jack, seguiti dalle sorelle Rosemary, Kathleen, Eunice e Patricia. E infine i più giovani, Robert, Jean ed Edward. Sin dal principio, Joe Kennedy è disposto a piegare o addirittura infrangere le regole per ottenere ciò che vuole per se stesso e la sua famiglia. Uomo d'affari, astuto e spietato, guadagna milioni di dollari a Wall Street, a Hollywood e col mercato degli alcolici. Nonostante i pregiudizi anti-irlandesi, in meno di 20 anni Joe diventa uno degli uomini più ricchi d'America. Non è un segreto che covi ambizioni politiche, incluso il sogno di diventare presidente. Nel 1938 Franklin Roosevelt nomina Kennedy ambasciatore in Gran Bretagna, il primo cattolico irlandese a ricoprire la carica. È un trionfo non solo per Joe, ma per tutta la famiglia. Il loro arrivo in Inghilterra nel marzo del 1938 è un vero evento mediatico. Joe usa sapientemente i cinegiornali e la stampa per creare un'immagine positiva della sua famiglia, un'immagine che persisterà per anni. Chris Matthews, biografo. Quando i Kennedy arrivarono a Londra, furono incredibilmente ben accetti. Gli inglesi li adoravano, erano affascinanti e americani. Gli inglesi sapevano quanto fosse importante l'amicizia degli Stati Uniti, ed ecco arrivare questa incredibile e chiassosa banda di irlandesi americani, giovani, miliardari, che adoravano la cinepresa e che si inserirono alla perfezione nella società di Londra, al punto da diventare anglofili. Non si poteva chiedere di più. Le ragazze frequentano scuole religiose, ma Joe ha progetti ben più ambiziosi per i maschi. Nell'autunno del 38, Bobby, di 12 anni, e Teddy, di 6, vanno in visita a Eton e Canterbury. Ivan Thomas, autore di Robert Kennedy, His Life. Joe manda Bobby e Teddy a fare un giro delle scuole inglesi, scuole dell'Eton, naturalmente. Joe vuole che i suoi figli vengano educati con l'aristocrazia, perché ne acquisiscano il potere. Joe decide per una prestigiosa scuola londinese vicina all'ambasciata. Intanto, negli Stati Uniti, John frequenta l'università di Harvard. Si è iscritto nel 1936 seguendo la strada del fratello Joe e del padre. Inizialmente sembra preferire gli sport allo studio ed è membro delle squadre di nuoto e football. Ma è tormentato dai problemi di salute. L'estate dopo il primo anno ad Harvard, Jack attraversa l'Europa in automobile col vecchio compagno di scuola, Len Billings. Robert Dallek, autore di An Unfinished Life, John Fitzgerald Kennedy. Negli anni 30, in piena depressione, non erano molti gli americani che potevano permettersi un viaggio in Europa, ma Jack Kennedy sì, e la sua famiglia lo considerava importante per la sua educazione. Jack era un tipo curioso e in quel viaggio imparò moltissimo sulla storia e la politica in Europa e sulle relazioni internazionali. Fu l'inizio del suo interesse negli affari esteri, che durò tutta la vita. Jack soffre da sempre di coliti e problemi di stomaco. Ormoni, cure e medicamenti vari non riescono a guarirlo. Ma nonostante la salute cagionevole, ad Harvard persegue con passione il suo interesse per gli affari internazionali. Intanto, dall'altra parte dell'Atlantico, i Kennedy più giovani scoprono le loro umili radici e attirano l'attenzione partecipando all'insediamento del nuovo Papa. Far partecipare la famiglia ad eventi planetari è una priorità per Joe. Nel marzo del 1939 è inviato in Vaticano come rappresentante di Roosevelt all'insediamento del Papa Pio XII. L'ambasciatore sfida il protocollo e insiste nel portare l'intera famiglia. Solo Joe Jr., che è in Spagna, non può essere presente. 10 Kennedy assistono all'evento. Occupano così tanti posti che in principio non c'è spazio per far sedere il ministro degli esteri di Mussolini. Ne nasce quasi un incidente diplomatico. Giorni dopo, in una messa privata per i Kennedy, Teddy, di 7 anni, riceve la prima comunione dal nuovo Papa. Sia Rose che Ted lo ricorderanno come uno dei momenti più belli delle loro vite. La famiglia continua a viaggiare in Italia. La governante segue con particolare attenzione Rosemary, che continua ad avere crisi incontrollabili. I suoi problemi peggioreranno e per l'aprile del 1941 suo padre prenderà una terribile decisione. A insaputa della moglie, Joe fa sottoporre la figlia a una nuova procedura, una lobotomia. Ma l'operazione fallisce, condannando Rosemary all'infermità mentale per il resto della sua vita. Ivan Thomas, autore di Robert Kennedy, His Life. La vita a Londra non era tutta rose e fiori. La guerra era alle porte. Ci sono immagini dei rifugi antiaerei che vengono scavati in pieno centro di Londra, in previsione dell'apocalisse. Mentre molti in Inghilterra considerano inevitabile la guerra contro i nazisti, l'ambasciatore Kennedy sostiene pubblicamente le politiche attendiste del primo ministro Neville Chamberlain. 1 settembre 1939, Hitler invade la Polonia. 2 giorni dopo, Joe Jr., Kathleen e Jack assistono alla seduta del Parlamento che decide la dichiarazione di guerra alla Germania. Joe sa che Londra sarà uno dei bersagli principali. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, inizia a rispedirla a casa. Il transatlantico Washington riporta a casa un gran numero di rifugiati. Tra i passeggeri più importanti la signora Kennedy, moglie dell'ambasciatore americano a Londra, e 3 dei suoi 9 figli, Bobby, Eunice e Kathleen. Quando nel 1940 Jack posa con lo Speak Club per la foto dell'ultimo anno, ha già in tasca la chiave per la fase successiva della sua vita. La sua tesi di laurea è uno studio sui motivi dell'impreparazione dell'Inghilterra alla guerra. Incoraggiato dal padre da questo lavoro, Jack trae un libro, Why England Slept. Nell'estate del 1940, grazie anche alle conoscenze del padre, il libro è già un bestseller. Chris Matthews, biografo. Fu il suo primo vero gesto politico. Il libro recuperava la posizione del padre, che sosteneva che l'Inghilterra non fosse pronta, e allo stesso tempo dava ragione a Churchill, il suo idolo. Mentre la carriera di suo figlio prende il volo, quella di Joe Kennedy subisce una battuta di arresto. Nell'autunno del 1940, Londra fa i conti con l'enorme potenziale bellico dei tedeschi. Mentre gli inglesi combattono per sopravvivere, lo sconsolato ambasciatore dice a un giornalista che la democrazia è finita in Inghilterra e che potrebbe esserlo a breve anche in America. La frase inopportuna gli fa rivoltare contro l'opinione pubblica di entrambe le sponde dell'Atlantico. Joe viene richiamato negli Stati Uniti. L'incidente pone fine alla sua carriera politica e al suo sogno di diventare presidente. Giugno del 1941. L'America non è ancora in guerra, ma Joe Jr. decide di arruolarsi. Supera gli esami medici e inizia l'addestramento da pilota di marina. Anche Jack vorrebbe arruolarsi in marina, ma i suoi problemi di salute gli impediscono di superare i test medici. Robert Dallek, autore di An Unfinished Life, John Fitzgerald Kennedy. Veniva da una famiglia ricchissima, non aveva bisogno di arruolarsi. Per farlo dovette usare le sue conoscenze, quando tutti le avrebbero usate per farsi riformare e dire che era stato veramente riformato per guai fisici. Secondo lui, tutti avrebbero dovuto arruolarsi, ricchi e poveri. L'America andava in guerra e la guerra riguardava tutti. Dopo l'entrata in guerra, il 25enne Jack comanda una moto silurante nel sud del Pacifico. La notte del 1 agosto del 1943, insieme al suo equipaggio, è di pattuglia nelle acque delle Isole Salomone. Un caccia giapponese sbuca dal nulla e taglia a metà l'imbarcazione di Jack. Chris Matthews, biografo. Nelle acque piene di nafta, riuscì a localizzare tutti i sopravvissuti. Li riunì e fece in modo che rimanessero tutti insieme durante la notte. Il mattino dopo decise di puntare verso un'isola vicina. Erano 4 ore a nuoto, ma almeno avrebbero avuto meno probabilità di essere catturati. Fu un altissimo atto di eroismo. Ora che Jack è considerato da tutti un eroe, Joe sente la pressione di dover dimostrare il suo coraggio. Così si offre volontario per una pericolosa missione contro una base missilistica tedesca in Francia. L'aereo di Joe, un B-42 Liberator, pieno zeppo di bombe, decolla dalla base aerea inglese di Hersfeld il 12 agosto del 1944 ed esplode in volo sopra il canale della Manica. Joe Jr. muore all'età di 29 anni. Il suo corpo non verrà mai ritrovato. John F. Kennedy non perde tempo ad entrare in politica. Nel 1946 corre per il Senato nello stato del Massachusetts. Suo padre Joe ha l'esperienza e le risorse economiche per aiutarlo nella campagna. Il 29enne Jack è ora il portabandiera riconosciuto della famiglia. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo The Kennedys, video di famiglia, per la regia di Harrison Engel, casa di produzione SFM Entertainment LLC, in associazione con Signal Hill, titolare dei diritti AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 4 novembre alle 21, su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.